California, Michel. T'as pas le monde derrière là, mais apparemment, j'entends plus. Il y a de la surmodulation. Oui, j'entends les autres stations là. À un moment, je voudrais quand même prendre les coordonnées de kilomètre 56. Les deux derniers chiffres, c'est quoi? Ok, j'ai reçu à 100% là. C'est Sébastien, le prénom. Bon, hein. Surtout on aime là, 73 à toi Stéphane. Ok, ben votre radio elle est de 5. Bon, j'ai remonté un peu parce que j'étais en QRP. Hein. J'étais en QRP, j'ai remonté. 73 Stéphane. 14 Tango Charlie 38, c'est correct? Ok, pour le département 36, mais j'ai pas pris le prénom non plus parce qu'il y a beaucoup de surmodulation. Et après je vais quitter là, je vais me remettre en stand-by. Très très bon matériel, j'en possède une là. Je fais de temps en temps de la radio avec, mais elle est modifiée des DS. Hein. Voilà Thierry, 73, je ne me fais pas plus long, sinon je vais finir en penlope là, en AM. Et ça fait beaucoup de bazar pour moi. 73 à toi, bonne soirée. 73, en tout cas, elle fonctionne très très bien ta Saturne. Hein. À toi, c'est 9-10 dB, hein. 9-10 dB. Il y avait comment Stéphane qui passait bien, mais alors là, aïe aïe aïe. Chez toi, c'est le top top. Bonne soirée, il est quelle heure là chez moi? 17h... Attends, je deviens aveugle. 17h06 et j'ai 27 degrés. Un métier, sors pas le mouchoir pour pleurer. Hein. Dommage pour toi. Et il faut prendre la voiture ou l'avion et hop, tu descends plus bas. Allez, amitié, à bientôt. On se retrouvera certainement sur les fréquences plus haut en uniforme Sierra Bravo. À bientôt. Attends, ben écoute, tu vas entendre ton émission ici sur le sud Maroc. Écoute bien, hein, ne prends pas le micro. Voilà, donc Alexandre du centre France, là, donc le département 41, là, donc c'est le Loir-et-Cher, là. Voilà comment je te reçois ici, Alexandre. 59-10 dB, incroyable, soit 59-10 dB. Je vous souhaite une bonne soirée, Alexandre. Concentré. Ma mi ascolti? Non c'è la città adesso. Con un microfono che ti appende. Aspetta, mangia le parole. Buona olia. Vabbè, Manuel. Allora, come ti sei? In bicicletta, andiamo. Si è varato al massimo della breccia. A te manca da Ramosi. Ora ci uccidere colpo. A te mi sembra che tu sei dormito senza scarpe stanotte, per quello ti manca la voce. Buonasera a tutti. Sì, buonasera Gian Maria. Lei è Emanuele, mi. E infatti, io stavo dicendo, cosa è dormito a rinunce, ma io che ti ha mancato la voce. Non la mancati la voce di Emanuele. Ma mi ha dato di male, alla fine ti manca. Ha dormito ieri rinunce, ma Emanuele. Lavora. A me non pagano le pensioni a noi, sì, io lo so. Fu già stato vedo. Allora Jimmy. Vabbè. Dove sono vedo, quindi sono bello. Ma te so chi si è, alle minime, 3 euro l'hanno aumentato. E allora, dove chi so? Dove chi so che pagini? Poi ne ha ciappate, chi si è liati e appiccati. Non sta uscendo. Ma Noè, cosa hai detto? Ah, Noè, non stai uscendo, sta. Ti ha dato un po' uguale. Tu baracchino di Emanuele, tu. Si è ritirato un microfono. Giulia, che è che andiamo. Ah, stiamo a fare il giro con un microfono, Emanuele. e io ce la fa dire, può farlo, così legge la puntina, senza sale però, che sei fatto, era ora. Allora ce la fermi il microfono, lascia questo, ma devo lasciare perché è da tratti. E adesso già va bene, già va bene adesso. Bene, è abbastanza chiara, e per cui. Lascia questo, sei tranquillo. Bella, questa è tranquilla almeno. Almeno ti senti. E ti sentiamo. Vabbè. Ti andiamo a vedere così. Beh, lui non esce a sentire senza bene. Ma è lui che non esce, è il microfono che non esce, capito? Lo so che è il microfono che non esce. Ci deve essere qualche cosa che lo interrompe. Sicuramente vorrà pulito o vorrà. Guardate che non ci sia qualche fila, tocca o non tocca. Fa la bollito che vedrai che funziona. C'è l'acquario, sai, che quello lo svago, a chi piace. Fai bene, sei appassionato all'acquario, puliscilo bene. Falli ingrassare che il tuo marrutto lo vede. Allora ci conviene, vero tu? Ricompare con parattino a pescheria, fai prima. E ci sono venuto alla magna. Ma se sei appassionato, già si può dedicare a queste cose. Uno quando ha una passione si deve dedicare. Tu sei appassionato e ti devi dedicare è parecchio, perché sono belli. A me, ripeto, non mi piacciono, però a chi piace è giusto che ci tenga. Le guide si possono mettere in quelle vasche così. Allora conviene, ragazzi, gira, che peso è. Ma lo faccio in campagna del vascone, che è l'acquario. Ma va bene, lì ci posso mettere tutto quello che voglio, è abbastanza grande. No, mi piace solo mangiare i pesci, andrò a comprarmeli a mangiare, a farli, no, non è per me, capito? Forse attore. È una buccia, vira via. Più grosso mi è rimasto, però ce l'avevo. Ma poi è cominciato a morire una già è stata più. Dovrebbe essere a 100 litri, dovrebbe essere. Sono lì che lo devo pulire, lo devo tutto. Non so quando. Sì, si diventa nel Beggio Baelli. No, c'è il coso, attacca la calamita, attaccata. Per pulire. So che devo avere pazienza, devo andare e pulirlo. No, ti sono c'è tutto termostato, tutto quanto c'è, il coso per dare l'ariatore, tutto c'è tutto c'è. Ce l'ho avuto io, ve ne ho già avuto fino a 50, poi a uno è cominciato a morire. E mi aveva detto, dice, che ci mancava la carbonella, dice, che gli mancava. Ha detto, ma si vede tutto, vai, deve tutto, vai, da dove e vi mancava la carbonella. Infatti faccio la carta con la carbonella buttare una base. Sai che mancava, non ho capito quella frase. La carbonella. E cioè sarebbe la carbonella, che cosa? Ah, la carbonella, ecco. Ho capito la carbonella, quella dell'impasto. Quella serve per fare da filtro. Hai capito? Ah, ecco, ho capito. Ci vuole passione, là. Ho capito, ci vuole grande passione e molta attenzione. Bisogna saperlo fare, bisogna saperlo usare, dai. A di là, vivoni, anche gli hanno dei mori uno, deve sostituire. Si possono mettere tanti pesci, così, Manuè, addirittura. Sono piccolini, allora. Già ne ho visti pochi, ma non è la passione mia, però si è appassionato, dovrebbe piacere, sì, certo. Vai, vai, è bello, vero, vai. Ma giù, giù, giù, c'erano due pulitori. Uno bello grande e uno piccolino. Penso un po' come quasi tutto va via. E poi avevamo se ne sono andati. Gli ho detto, boh, basta, a volte è cresciutato. E tutte le qualità ne avevo. E quelli piccolini che si vedono alla luce la notte. Poi quegli altri che li facciano a ventaglio. Insomma, le nomi ne ho meramente tutti. Poi i diamantini, non va più. Ma poi è venuto questo qua e mi ha controllato il perché morivano. Ha mandato le cose di leva dove c'era il filtro e mi ha detto già ti credo che ti muri, ti durano un mese e poi cominciano a morire. Ci mancava la carbonella, ci mancava. Fatta da voi non ha giubbuto più. E ci sei superato. La tigre, ho dato l'idea che si è rampato. Ci vuole passione. Se ce l'hai, devi avere un bel passione. Insomma, sapere tutto, cosa metterci, cosa usarli, eccetera, eccetera. E io già non me lo intendo, Io vissi, ma a sapere queste cose non mi sono mai interessato. C'avevo un sacco di piante dentro. Le piante le ho prese, le ho tutte regalate. Non li avevo cosa e le ho regalate le piante. Ma tu piante li hai? Mettici qualche pianta d'arancio dentro, Manuele. E adesso guarda, va. Te invece pure un mio. E un giorno te lo mando. Ma io ce l'ho il numero tuo. Quindi, se la chiamate te rimani. Ehi. Aspetta, va. Arrivato te, Emanuele. Ehi, Emanuele. Bello, bello. Bello, Emanuele. Molto bello. E bisogna un bel dire a viso. Anche le piante gustano un bel mattese. Quello di Ragno Fisò, già quest'anno che sei pesce buco, certo, ne venisò un bel Fisò, pesci diamantini che si vedono là, la notte si vedono quelli trasparenti, infatti, il mio, cosa, pulitore non ne hai, devi sì, si pare gli squaletti, infatti, si nascondono, che è così. Vabbè Gianmarie, vinturai! Già l'ho visto, adesso guardando. Non riesco a mandarle il filmato, l'assetto, non riesco a mandarlo. Non mi riesce. Non ti preoccupare, già me l'ha mandato Manuele. Gli ho mandato il numero. Allora va qui, va qua. È bello Manuele, grazie. Ce ne sono parecchi pesci però, addirittura. Bella, è bello colorati anche, sono delle piante dentro, ma bello veramente. Vabbè, a chi piace Manuele, a me sinceramente. Non è la passione mia, però sono belli, va. È bello. Sono visto gli esci, sì? Sì, Cappa, è bellissimo. È bellissimo anche come è fatto. Come è messo le piante e tutto. Bravo, Manuele. La passione vuol dire molto, Manuele. Vuol dire molto la passione, Ti dedichi parecchio, è meglio che sia qui, dai. A chi piace il giusto che sia ben messi, dai, forse è meglio, là. Forse è meglio. Se trovo magari le rocce di tutti i tipi, cazzo, è più bello ancora. È bello, vai tu. Sì, no, è abbastanza. E poi i pesci che ti circolano tutto quanto in mezzo alle piante e tutto, a buglia. E la notte è illuminato Emanuele, bisogna anche conoscere il movimento di questi tipi di pesci, è giusto che sia così. Fatti stare il più. Già le altre cose tu dai. È meglio che sia così. Infatti, anch'io te l'accendevo 3 e lo spegnevo, alle 6 lo spegnevo, e proprio a tenerlo e coso. E andato fa 2-3 anni a lui, e era Giuseppe che lo devo pulire, si sa che non mi ha messo un buro, e lo devo tutto per pulire, lo nevo. Adesso mi pongo, lo svuoto tutto quanto e lo pulisco bene, tutto quanto, e gli metto la carbonella, gli rimetto. Quelli ci sono dentro, quelli ci sono, so che non c'è la carbonella sotto. Per primo ci va la carbonella, quelli così, il filtro di coso, e poi a mano lo fai girare, c'è tutto quanto, c'è, ho tenuto così fermo e mai faccio danni, la sabbia c'ho la sabbia dentro, e poi ne ho, mi sembra, un mezzo sacco giù in magazzino, un mangio di quella sabbia lì. No, ma c'è già la sabbia nell'acquario, in fondo c'è già, solo da ripulire tutto e boh, devo aggiungere solo un altro po' di roccia, devo aggiungere, perché c'è, gli avevo tolte, perché gli avevo tutti bene, le ho tolte. Devo aggiungere solo le torno alle rocce. Ma lo so, sì, io l'avevo fatto, anche a metà l'avevo fatto. E detto, per un anno lo tenevo giù, poi lo fanno a metà, togli quella metà di acqua e gli aggiungi un'altra metà. E facevo così, facevo. L'acqua tiepida, avevano detto di mettergli, quindi a voglia, se l'aveva fatto come ti girivi, e gli ho detto, ma un bel poco, alla buona è cominciato a morire, boh, basta, giusto. No, infatti, aiuto il a baitarlo, aveva controllato tutto, poi aveva controllato un filtro, no, ma mi ha detto, no, qua ci manca la carbonella, vai forza, ti smucci tutti i canti. Ho regolato le piante, ho regolato e tutto, ma non ne aggiungo più. Certo, mangi giù, ci sono pronti a mangiare. Mi raccomando, prepara la graviglia e che li suggerisci, Manuè. E sto chiuso io, vai, che ce l'ho a fare, per cui sentiamo lì questo, vai. Ciao Manuè, buon provvedimento, sentiamo, ciao Tom, ripresi qui, io chiudo. Ok, ciao Gianmari, stammi bene, alle prossime. Ok, ciao Manuè, stammi bene, alle prossime.